Il Galaadita Yefte era un valoroso guerriero. Era figlio di una prostituta e di Galaad. Ora, Galaad aveva altri figli, nati dalla moglie legittima, e quando questi divennero adulti, cacciarono Yefte perché non volevano che avesse parte nell'eredità del loro padre, essendo figlio di un'altra madre. Per paura dei suoi fratelli, Yefte fuggì e si stabilì nella terra di Tob. Intorno a lui si raccolsero avventurieri con i quali compiva scorrerie. Qualche tempo dopo gli Ammoniti mossero guerra a Israele. Quando gli Ammoniti assalirono Israele, gli anziani del Galaad andarono a cercare Yefte nel paese di Tob e gli dissero: «Vieni a metterti alla nostra testa per combattere contro gli Ammoniti». Ma Yefte rispose agli anziani del Galaad: «Siete voi che, odiandomi, mi cacciaste dalla casa di mio padre. Per quale motivo, ora che siete in difficoltà, siete venuti da me?» «È proprio per farti questa proposta», ripresero gli anziani del Galaad, «che ora siamo tornati da te. Se vieni con noi a combattere contro gli Ammoniti, ti faremo nostro capo, capo di tutti i Galaaditi». Disse Yefte agli anziani del Galaad: «Se voi volete che io torni per condurre la guerra contro gli Ammoniti, e se il Signore mi concederà la vittoria, io sarò vostro capo». Gli anziani del Galaad confermarono a Yefte: «Il Signore è testimone fra te e noi che faremo come hai detto». Allora Yefte andò con gli anziani del Galaad e il popolo lo proclamò suo capo e suo comandante. Yefte poi ripeté ancora in Mizpa tutti i patti davanti al Signore. Yefte mandò subito ambasciatori al re Ammonita a dirgli: «Che c'è tra te e me per cui tu mi abbia mosso guerra e tu sia venuto a invadere la mia terra?» Il re di Ammon rispose agli ambasciatori di Yefte che il motivo di guerra era rappresentato dal fatto che Israele, al tempo in cui risaliva dall'Egitto, si era impossessato della sua terra, i cui confini andavano dall'Arnon fino all'Iabok e fino al Giordano. Invitava Yefte a restituire pacificamente i territori occupati. Ma Yefte rimandò di nuovo ambasciatori al re Ammonita a dirgli: «Così dice Yefte: Israele non ha mai occupato né i territori dei Moabiti né quelli degli Ammoniti. Quando Israele uscì dall'Egitto, marciò nel deserto fino al Mar Rosso e raggiunse Cades. Di qui gli israeliti mandarono ambasciatori al re di Edom per chiedergli di lasciarli passare attraverso la sua terra. Ma il re di Edom rifiutò. Allora essi inviarono ambasciatori al re di Moab, ma anche questi non volle cedere. Così Israele dovette restare a Cades. Di qui poi avanzò nel deserto, passando al di fuori sia del territorio di Edom che di quello di Moab. Gli israeliti giunsero così ad est della terra di Moab e si accamparono al di là dell'Arnon, senza penetrare nel territorio moabita, perché il confine di Moab è all'Arnon. Di qui gli israeliti inviarono ambasciatori a Sicon, re Amorreo, che regnava in Chesbon, per chiedergli di passare attraverso il suo territorio per poter raggiungere la loro sede. Neanche Sicon si fidò a far passare Israele attraverso il suo territorio. Anzi, raccolti tutti i suoi uomini, andò ad accamparsi in Iaz, dove dette battaglia ad Israele. Ma il Signore, Dio di Israele, consegnò Sicon e tutta la sua gente in potere di Israele, che riportò vittoria sopra quegli amorrei, entrando giustamente in possesso di tutti i territori da loro abitati. Pertanto, gli israeliti presero possesso di tutto il territorio amorreo, dall'Arnon fino all'Iabok, e dal deserto fino al Giordano. Ed ora che il Dio di Israele, Signore, ha cacciato via gli amorrei davanti al suo popolo di Israele, vorresti tu mandarci via? le terre di cui il tuo dio Camos ti ha fatto entrare in possesso, tu te le tieni. Così anche noi ci teniamo quanto il Signore, nostro Dio, ci ha fatto possedere. Forse che tu sei da più del re moabita Balak, figlio di Zippor? Costui non ebbe mai nulla da eccepire contro Israele, e non gli mosse mai guerra quando Israele si insediò 300 anni fa in Chesbon e nelle città dipendenti, in Aroer e nelle città dipendenti, e in tutte le altre città poste sulle rive dell'Arnon. Perché non li avete rivendicati allora, questi territori? Io non ti ho fatto alcun torto, e tu, invece, ti comporti male con me facendomi guerra. Oggi, dunque, giudichi il Signore, che suole far giustizia, fra gli israeliti e gli ammoniti. Ma il re ammonita non volle dar retta a quello che Jefte gli aveva mandato a dire. Lo spirito del Signore si posò su Jefte, il quale, percorsi i territori del Galaad e di Manasse, raggiunse Mizba del Galaad e da qui marciò contro gli ammoniti. Jefte fece un voto al Signore con queste parole: «Se tu mi farai vincere gli ammoniti, quando tornerò vincitore dalla guerra contro di loro, colui che uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro sarà sacro al Signore, e glielo offrirò in olocausto». Jefte mosse dunque contro gli ammoniti, e il Signore li dette in suo potere. Egli li sconfisse da Aroer fino a Minnit, conquistando 20 città, e fino ad Abel Keramim. Fu una gravissima disfatta, in conseguenza della quale gli ammoniti furono umiliati davanti agli israeliti. Quando Jefte tornò a casa sua in Mizpa, sua figlia gli uscì incontro per prima, guidando un gruppo di fanciulle che danzavano al suono dei cembali. Era la figlia unigenita, perché egli non aveva altri figli, né maschi né femmine. Quando egli la vide, si stracciò le vesti ed esclamò: «Ahimè, figlia mia, davvero tu m'hai prostrato nel dolore. Sei tu la causa del mio turbamento, che io l'ho promesso al Signore e non posso tirarmi indietro». Essa gli rispose: «Padre, se hai fatto una promessa al Signore, poiché egli ti ha concesso di vendicarti dei tuoi nemici, gli ammoniti, fa di me secondo la tua promessa». Essa disse a suo padre: «Si compia su di me codesta tua promessa. Concedimi 2 mesi, perché io me ne vada con le mie compagne su per i monti a piangere la mia verginità». Il padre le disse: «Va», e la lasciò andare per 2 mesi. Essa andò insieme alle sue compagne a piangere sui monti la sua verginità. Finiti i 2 mesi, essa tornò da suo padre, il quale compì su di lei il voto che aveva fatto. Essa non aveva conosciuto uomo. Per questo nacque in Israele l'usanza che le ragazze di Israele vadano tutti gli anni per 4 giorni sui monti a celebrarvi il lamento della figlia di Jefte il Galaadita.